Direi che mancano 2 secondi alle 7 precise. Come al solito, noi staccanovisti di pane, burro e rock and roll siamo già presenti negli studi. Parlo con un plurale maestatis, visto che il buon Roberto Fricantoni in realtà non c'è ancora, ma come ogni giorno arriverà. Ah, sì, sì, direttamente da Bologna ci sarà anche lui. Certo, c'è già il nostro regista Spadino. E allora, tutti pronti, allacciate le cinture di sicurezza. Andiamo a cominciare la puntata 131, sigla! Ciao amici, ciao amiche, oggi inizio un po' diverso, adesso vi spiego anche perché, ok? Pane, burro e rock and roll, la tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll, dai che è venerdì, gli affamo! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Vi tireremo per le orecchie fino alle 9 del mattino. Dicevo, inizio differente perché vorrei sfruttare il mezzo radiofonico per fini assolutamente privati. Quindi chiederei al buon Spadino di lanciare il nostro bel gingolino e di attaccare con il primo brano di quest'oggi. Tanto c'ha l'intro che è lunghissimo. Non solo l'intro c'ha lungo. Una canzone meravigliosa, targata Pink Floyd. Andrò a spiegarvi qual è il mio problema. Stamane, il DJ Ariel appena sveglio, ha detto: dai, Ariele, mi dico io tra di me, dai Ariele, metti su un bel pezzo che vediamo di svegliarci bene. Vediamo di tamponare, lapsus freudiano, di tamponare un po' sto cervello, sennò va a finire che ne usciamo pazzi. Mi metto sul mio bel vinile Shine On You Crazy Diamond, e però mi accorgo che, visto che il brano dura 12 minuti, quando mi allaccio le scarpe e sono pronto per uscire da casa, non è ancora nemmeno entrata la chitarra. Quindi con delusione esco di casa in questo gigantesco coito interruptus e ci sparo pure un latinismo così maccheronico. E allora mi faccio tutto il viaggio Gallarate-Milano pensando: no, non posso non aver ascoltato Shine On You Crazy Diamond, sono un deficiente. E allora mi viene un'idea. Perché non ascoltarla insieme ai radioascoltatori? Appena arrivo là, glielo dico a Spadino, track, la piazziamo e me la sento tutta, no? Anche voi che vi state svegliando, che vi state vestendo, state per uscire di casa, non abbandonatela sta canzone, non lasciatela lì a metà. Sennò poi la giornata piglia un verso strano. Dedicatevela, gustatevela tutta. E questo venerdì 16 di novembre potrebbe trasformarsi in un gran venerdì 16 novembre, no? Ed io più o meno qui avevo già finito di vestirmi, ero già fuori. Ah, invece adesso me ne sto qui con la mia bella cuffietta e me la gusto tutta. Ci suona anche un po' di chitarra sopra. Ci metto pure il basso, ci metto. Ma alla radio non si può sentire un brano di 12 minuti. Ah no? Con chi pensate di avere a che fare? Dei pischellini, eh? Buon ascolto. Spegni il microfono, Spadino, scemo. Thank you. Tracy Diamond, Pink Floyd. Vedo che il numero di SMS ve lo ricordate bene, eh? Non vi conoscessi, mascherine là fuori. 335-100-7777. Quanti messaggi meravigliosi. Pensate di essere in montagna a 3000 metri. Guardate il mondo da lassù ascoltando questa canzone. Che meraviglia. Voi non siete una radio, siete la radio. Altro che coitus interruptus. È da doppietta questa. No, doppietta no, perdonami. Sono al lavoro con 38 e mezzo di febbre. Sentendo le prime note dei Pink Floyd mi sento già meglio. Grazie. Ma grazie a voi, ragazzi. Un sacco di messaggi carinissimi. Beh, insomma, avete apprezzato questa scena on You Crazy Diamond. Ce n'è solo uno tra i tanti. Oh, bella, non si può negare, però un po' soporifera. Sono fuori casa dalle 5 e sveglio dalle 3, causa bimba. Ritmo, ragazzi, ritmo. Va bene, ci proveremo. Fa piacere vedervi già svegli a quest'ora, però, eh? Benvenuti. Vi trattiamo così, vi trattiamo bene fino alle 9 del mattino. Ancora in attesa di Roberto Fricantoni, che certamente arriverà tra poco. Ho annunciato questa canzone dicendo non ho potuto gustarmela a casa, e allora me la gusto con voi. Secondo... non ce l'ho fatta, ero al telefono. Al telefono con Ale, un gentilissimo radioascoltatore di Ravenna che sta lavorando per Pane e Burro Rock and Roll, per organizzare un raduno per dare le patenti da vero rocker. Io adesso non voglio far venire invidia ai genovesi e agli amici toscani, però vi dico questo: se andiamo a fare la patente da vero rocker prima in Romagna che da voi, vi hanno bagnato il naso, eh? È ufficiale. Inizio dolce, oggi è dolce, che ci volete fare? Faccio una dedica, posso? Dai, sì. Ieri, a termine della trasmissione, sono dovuto schizzare al volo, tra l'altro dalle parti dell'Emilia Romagna, perché avevo dei lavoretti da fare sulla mia faccia, facciamo così. Infatti anche oggi non sono messo benissimo, tipo che mi sto facendo un lifting, robe così. E allora, true trampi, la macchina, scatto su e mi ascolto un po' di Radio DJ, così, insomma, per fare come il nostro patentato 147, ascoltare un po' la concorrenza. E mi sento un pezzo del programma di Fabio Volo, che saluto, ciao Fabio, mai conosciuto in vita mia, però fa figo far credere che lo conosco, non lo conosco. E poverino, l'ho sentito che si lamentava dicendo che forse era l'ultima volta che avrebbe potuto mettere un disco lui, gli altri li avrebbe... sarebbe dovuto accontentare della scaletta forzata di Radio DJ, e ha fatto ascoltare i Traveling Wilburys, menandosela anche un po', come per dire: ah, solo io ve li faccio sentire. Uè Fabio, guarda, te li dedico anch'io, qui a Rock FM posso metterli tutti i giorni. Sì, guadagnerai molto più di me, ma qua spacchiamo tutto. Up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's tolerable. But baby, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine. Tamburi, squillo di trombe, oggi è venerdì e qui con noi in esclusiva nazionale da Bologna Roberto Fricantoni! Evviva il 16, evviva novembre, il mio mese preferito! Complimenti, dia il buongiorno al suo pubblico! Buongiorno al mio pubblico! E sa con cosa inizierei quest'oggi? Me lo dica, la prego, me lo dica! Inizia per A e finisce con Macco! Vediamo un po'. Non troverà nulla. L'almanacco del giorno che fu, fantastico. 16 di novembre 1849. Senta qua. Una corte russa condanna a morte Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. Pronuncia impeccabile. Grazie. Per attività antigovernative collegate a un gruppo intellettuale radicale. Scopriamo che la sua esecuzione viene cancellata all'ultimo minuto. Figo, come direbbe Bart Simpson. Che cosa? Che era stato condannato o che si salva? Il gruppo di intellettuali radicali, dobbiamo farlo anche noi. Cosa? Qui a Pane, Burro e Rock and Roll. Farci condannare. Sì, dobbiamo diventare dei sediziosi. Lo faremo, appunto. Sì. Esatto, diventare un gruppo di intellettuali la sediziosi. La salvo io qualche minuto esatto, prima dell'esecuzione. Ma mi raccomando, esatto, arrivi in tempo. Quindi sincronizziamo gli orologi. Okay. Il mio fa questo, il suo? Il mio le 13:45. Beh, arriverò a salvarla. Stia tranquillo. Ora venusiana. Mi faccia proseguire. 1906, la star dell'opera, Enrico Caruso. Maria Caso. Oh, sole mio. Eccolo lì. Viene accusato di atti osceni, senta qua, per aver presumibilmente pizzicato il sedere ad una donna allo zoo di Central Park di New York. Se l'avessero beccata tutte le volte che pizzica i sederi lei, freak. Ma io lo faccio solo per cercare i portafogli, sai? L'avevo intuito, sì. Ma come la mettiamo? Dobbiamo commentare. Commenti, allora. Enrico Caruso, sì, che pizzica il culo alle donne. Manado sole, più belle te. Un uomo che ama la vita, sicuramente. Un uomo che ama godersi la vita. Chiudiamo con un Boeing. Oh, sì. Era il Boeing X-43A della NASA. Nel 2004 stabilisce un nuovo record di velocità. E la velocità, ve lo ricordiamo, è rock. Va a 11.200 km orari. Mach 10. Pensi se un artista futurista, sì, rinascesse. Marinetti di fronte alla velocità di un aereo. Futurballa! Esatto, che va a Mach 10. Un brodo di giuggiole andrebbe. Impazzirebbe, si iscriverebbe subito al club dei Mach. Sì, esatto, esiste un club dei Mach. Naturalmente, l'ho inventato adesso, in questo momento, e ne facciamo parte tutti noi. Attendo la tessera. Like a hurricane around your heart, when earth and sky are torn apart.